Ora, ogni speranza e stratagemma di Will mirava a vedere Dorotea quando era sola. Egli voleva soltanto che lei si rendesse conto di lui con maggiore evidenza. Desiderava soltanto essere qualcosa di più speciale nel suo ricordo di quanto probabilmente credeva di poter diventare ancora. Era piuttosto insofferente di quella franca, ardente benignità che a suo vedere era il consueto sentimento di lei. La venerazione da lontano per una donna messa su un trono irraggiungibile gioca un grande ruolo nella vita degli uomini, ma nella maggior parte dei casi l'adoratore agogna a una qualche regale riconoscimento, qualche segno di approvazione, grazie al quale la sovrana della sua anima possa confortarlo senza discendere dal suo stato di elevazione. Questo era esattamente ciò che Will voleva, ma nelle esigenze della sua immaginazione vi erano una quantità di contraddizioni. Era bello vedere come gli occhi di Dorotea si volgevano con ansia e insistenza di sposa verso Mr. Casebo. Avrebbe perso un po' della sua aureola se non avesse mostrato quella doverosa preoccupazione. Eppure, un attimo dopo, il pensiero del marito, che assorbiva come sabbia un tale nettare, era più che intollerabile. Il desiderio di Will di pronunciare cose offensive su di lui era forse non meno tormentoso per il fatto che avvertiva delle ragioni più valide per frenare un tale desiderio. Willa non era stato invitato a cena per il giorno successivo, quindi si convinse di avere l'obbligo di fare una visita e che l'unica ora adatta era il mezzogiorno, quando Mr. Casaubon non sarebbe stato in casa. Dorotea, a cui non si era fatto capire che il marito non aveva gradito che avesse ricevuto Willa la prima volta, non esitò a riceverlo, soprattutto in quanto poteva trattarsi di una visita di commiato. Quando egli entrò, essa stava guardando alcuni camei che aveva comprato per Celia. Salutò Will come se la sua visita fosse una cosa scontata e disse subito tenendo un braccialetto di camei in mano: «Sono così contenta che siate venuto. Forse vi intendete di camei e potete dirmi se questi sono davvero belli. Avrei voluto che foste venuto con noi a sceglierli, ma Mr. Casebo ha trovato da obiettare. Pensava che non ci fosse tempo. Finirà il suo lavoro domani e partiremo fra 3 giorni. Mi sento in ansia per questi camei. Vi prego, sedetevi e osservateli». Non sono particolarmente esperto, ma non si può sbagliare di molto su questi piccoli quadretti omerici. Sono di una fattura squisita. Il colore è bello, vi sintonerà perfettamente. Oh, sono per mia sorella, che ha una carnagione del tutto diversa. L'avete vista con me a Lowick? Ha i capelli chiari ed essa è carina, perlomeno penso. Prima non eravamo mai state separate per tanto tempo in vita nostra. È tanto coccolata e non ha mai fatto le bizze in vita sua. Ho scoperto prima di partire che desiderava che le comprassi alcuni camei e mi spiacerebbe che non fossero belli nel loro genere. Dorotea aggiunse le ultime parole con un sorriso. Mi sembra che i camei non mi interessino, disse Will, sedendosi a una certa distanza da lei e osservandola mentre chiudeva gli astucci. No, francamente non li considero un grande obiettivo nella vita, disse Dorotea. Temo che siate un'eretica sull'arte in generale. Come mai? Mi sarei aspettato che foste assai sensibile al bello, dovunque si trovasse. Suppongo di essere insensibile a molte cose, disse Dorotea semplicemente. Mi piacerebbe rendere bella la vita, intendo dire la vita di tutti. E poi questo enorme dispendio dell'arte, che sembra in qualche modo al di fuori della vita e non la rende migliore per il mondo, mi addolora. Il pensiero che la maggior parte della gente ne è esclusa mi guasta il godimento di qualsiasi cosa. Questa la chiamo compassione spinta fino al fanatismo, disse Will con tono impetuoso. Potreste dire la stessa cosa del paesaggio, della poesia, di ogni raffinatezza. Se la realizzaste, dovreste essere infelice per la vostra stessa bontà e diventare malvagia per non avere alcun vantaggio sugli altri. La migliore compassione è godere, quando si può. Allora fate il possibile per salvare la fama della Terra come pianeta piacevole. Il godimento si irradia. È inutile cercare di curarsi del mondo, ve ne curerete quando provate piacere, nell'arte o in qualsiasi altra cosa. Vorreste trasformare tutti i giovani del mondo in un coro tragico che geme e moraleggia sull'infelicità? Io ho il sospetto che abbiate una qualsiasi falsa credenza sulle virtù dell'infelicità e vogliate fare della vostra vita un martirio. Will si era spinto più in là di quanto intendesse fare e si frenò. Ma il pensiero di Dorotea non stava seguendo il suo ed essa rispose senza alcuna particolare emozione. In realtà, mi fraintendete, non sono una persona triste e malinconica, non sono mai infelice per lunghi periodi. Sono arrabbiata e cattiva, non come Celia. Ho grandi scatti di stizza e poi tutto mi sembra di nuovo meraviglioso. Non posso fare a meno di credere nelle cose meravigliose, quasi ciecamente. Sarei assai disposta a godere dell'arte di qui, ma ci sono tante cose di cui non conosco il motivo, tante cose che mi sembrano la consacrazione della bruttezza più che della bellezza. La pittura e la scultura può darsi che siano stupende, ma il sentimento è spesso volgare, brutale, a volte persino ridicolo. Qua e là vedo ciò che mi attira subito per la sua nobiltà, qualcosa che potrei paragonare ai Monti Albani o al tramonto d'Alpincio, ma proprio per questo è un peccato ancora maggiore che ci sia una così esigua quantità di cose della migliore qualità fra tutte quelle su cui gli uomini hanno faticato tanto. È naturale che ci sia sempre una gran quantità di opere scadenti. Le cose eccezionali hanno bisogno proprio di quel suolo per crescere. Dio mio, fece Dorotea, cogliendo quel pensiero nel flusso principale della sua ansia. Capisco che deve essere molto difficile fare qualsiasi cosa di buono. Da quando sono a Roma penso spesso che la maggior parte delle nostre vite apparirebbero assai più brutte e goffe dei quadri se si potessero appendere al muro. Dorotea aprì le labbra di nuovo come se fosse sul punto di dire qualcos'altro, ma cambiò idea e tacque. Siete troppo giovane. È un anacronismo che nutriate simili pensieri, disse Will con energia, scuotendo rapidamente il capo, gesto per lui abituale. Parlate come se non aveste mai conosciuto alcuna giovinezza. È mostruoso, come se aveste avuto una visione dell'Ade nell'infanzia, come il fanciullo della leggenda. Vi hanno allevato instillandovi qualcuna di quelle terribili idee che preferiscono divorare le donne più dolci, come Minotauri, e ora ve ne andrete a rinchiudervi in quella prigione di pietra a Lowick. Sarete una sepolta viva. Divento furibonda a pensarci. Preferirei non avervi mai visto piuttosto che pensare che vi attenda una simile prospettiva. Will temette nuovamente di essere andato troppo in là, ma il significato che attribuiamo alle parole dipende dai nostri sentimenti. E nel suo tono di adirato rammarico vi era tanta tenerezza per il cuore di Dorotea, che aveva sempre donato ardore, ma non era mai stato alimentato granché dagli esseri umani che l'attorniavano, che essa provò un senso di gratitudine nuovo e rispose con un sorriso gentile. È assai buono da parte vostra preoccuparvi per me. È perché a voi Lowick non è piaciuto. Avevate desiderato ardentemente un altro genere di vita, ma Lowick è la mia dimora di elezione. Quest'ultima frase fu pronunciata quasi con una cadenza solenne. E Will non seppe cosa dire, dato che non gli sarebbe servito abbracciarle le pantofole e dirle che sarebbe morto per lei. Era chiaro che lei non desiderava nulla del genere. E rimasero entrambi muti per qualche momento, allorché Dorotea riprese a parlare con l'aria di dire finalmente cosa aveva in mente. Desideravo farvi nuovamente una domanda a proposito di qualcosa che avete detto l'altro giorno. Forse era per metà il vostro modo vivace di parlare. Noto che vi piace esporre le cose con impeto. Anch'io esagero spesso quando parlo in fretta. Di che si trattava? Disse Will, osservando che essa parlava con una timidezza del tutto nuova per lei. Ho una lingua iperbolica, prende fuoco appena parte. Penso che dovrò ritrattare. Alludo a ciò che avete detto sulla necessità di conoscere il tedesco, voglio dire, riguardo agli argomenti in cui è impegnato Mr. Casabo. Ci ho pensato e mi sembra che col suo parere Mister Casabo deve avere davanti lo stesso materiale degli studiosi tedeschi, non è vero? La timidezza di Dorotea era dovuta alla vaga consapevolezza di trovarsi nella strana situazione di consultarsi con una terza persona sul valore del sapere di Mister Casabo. Non esattamente lo stesso materiale, disse Will con l'intenzione di essere riservato come si conviene. Egli non è un orientalista, capite? Non sostiene di aver altro che una conoscenza di seconda mano in questo campo. Ma ci sono libri assai validi sugli usi e costumi antichi, che furono scritti molto tempo fa da studiosi che non sapevano nulla di queste cose moderne, eppure sono ancora usati. Perché quello di Mr. Casabo non dovrebbe essere valido come i loro? Disse Dorotea, protestando con più energia. Era spinta a fare ad alta voce la discussione che aveva dibattuto mentalmente. Questo dipende dal corso di studi intrapreso, disse Will, assumendo anche egli un tono di replica. L'argomento che Mr. Casabo ha scelto è mutevole come la chimica. Nuove scoperte creano costantemente nuovi punti di vista. Chi vuole un sistema sulla base dei quattro elementi o un libro che confuti Paracelso? Non capite che ora non serve a niente strisciare dietro uomini del secolo scorso, uomini come Briand, e correggere i loro errori? Vivere in un ripostiglio e rinfrescare teorie superate su Chus e Miss Reim. Come potete parlare così a cuor leggero? Fece Dorotea con uno sguardo tra adirato e triste. Se fosse come voi dite, cosa potrebbe esserci di più triste di tanto lavoro appassionato fatto invano? Mi meraviglio che non vi faccia provare un dolore maggiore se pensate davvero che un uomo come Mr. Kesabo, così buono, valido e dotto, debba comunque fallire in quella che è stata la fatica dei suoi anni migliori. Essa cominciava a scandalizzarsi. Per essere giunta a supporre tanto e a indignarsi con Will per averla condotta a questo punto. Mi avete interrogato su una materia di fatti, non di sentimenti, disse Will. Ma se volete punirmi per i fatti, devo dire che non sono nella posizione di esprimere i miei sentimenti nei riguardi di Mr. Kesabo. Nel migliore dei casi si tratterebbe del panegirico di uno che riceve da lui una pensione. Vi prego di scusarmi. Disse Dorotea, avvampando intensamente. Mi rendo conto, come voi dite, che sono io ad avere torto per aver introdotto l'argomento. In effetti ho completamente torto. Un fallimento dopo un lungo lavoro di perseveranza è molto più grandioso che non essersi mai impegnato in uno sforzo abbastanza nobile da venir chiamato un fallimento. Sono completamente d'accordo con voi, disse Will, deciso a mutare l'atmosfera creatasi, a tal punto che ho deciso di non correre il rischio di non raggiungere mai un fallimento. La generosità di Mr. Kesabo è forse stata pericolosa per me e intendo rinunciare alla libertà che essa mi ha consentito. Intendo tornare in Inghilterra fra breve e lavorare per conto mio, non dipendere da nessuno tranne me stesso. Questo è bello, rispetto a questo sentimento, disse Dorothea con rinnovata gentilezza. Ma Mr. Kesabo, ne sono certa, non ha mai pensato a nulla che non fosse principalmente per il vostro benessere. Ha ostinazione e orgoglio a sufficienza da offrire al posto dell'amore, ora che lo ha sposato, si disse Will, ad alta voce alzandosi, disse: Non vi rivedrò. Oh, restate finché non giunge Mr. Kesabo, disse Dorotea in tono sincero. Sono così contenta che ci siamo incontrati a Roma. Desideravo conoscervi. E io vi ho fatto arrabbiare, disse Will. Vi ho fatto pensare male di me. Oh no, mia sorella mi dice che mi arrabbio sempre con quelli che non dicono esattamente quello che voglio. Ma spero di non essere portata a pensare male di loro. Alla fine sono di solito obbligata a pensare male di me per essere così intollerante. Eppure non vi sono simpatico. Vi ho spinto a giudicarmi una persona sgradevole. Proprio per niente, disse Dorotea con la più franca gentilezza. Mi siete assai simpatico. Will non fu del tutto soddisfatto, pensando che sarebbe evidentemente divenuto più importante se fosse stato antipatico. Non disse nulla, ma pareva depresso, per non dire imbronciato. E mi interessa molto vedere cosa farete, proseguì Dorotea in tono allegro. Credo profondamente in una differenza naturale di vocazioni. Se non lo pensassi, suppongo che sarei assai ottusa. Vi sono tante cose oltre la pittura di cui sono completamente ignorante. Non credereste quanto poco abbia appreso di musica e letteratura, di cui voi conoscete tante cose. Mi chiedo quale potrà essere la vostra vocazione. Forse fare il poeta? Dipende. Essere poeta significa possedere un'anima così pronta a comprendere che nessuna sfumatura di qualità le sfugge, e così pronta a sentire che quella comprensione non è che una mano che suona con varietà finemente ordinata sulle corde del sentimento. Un'anima il cui sapere si trasforma istantaneamente in sentimento, e il sentimento torna in un baleno ad essere un nuovo organo del sapere. Si può essere in quelle condizioni solo a tratti. Ma dimenticate le poesie, disse Dorotea. Penso che siano necessarie per completare il poeta. Capisco quando parlate del sapere che si trasforma in sentimento, perché mi sembra proprio ciò che provo, ma sono sicura che non sarei mai in grado di scrivere una poesia. Voi siete una poesia, e questo vuol dire essere la parte migliore di un poeta. Ciò che costituisce la coscienza del poeta nei suoi momenti migliori, disse Will, mostrando quell'originalità che tutti abbiamo in comune col mattino e la primavera e altri infiniti momenti ricorrenti. Sono assai felice di sentirlo, disse Dorotea pronunciando quelle parole con una risata simile alla modulazione di un uccello e guardando Will con giocosa gratitudine negli occhi. Che cose davvero gentili, mi dite? Vorrei poter far sempre qualcosa che voi definite gentile, esservi sempre, per quanto poco, di aiuto. Temo che non avrò mai l'occasione. Will parlava infervorato. Oh sì, disse Dorothea in tono cordiale, si presenterà e io mi ricorderò quanto bene mi augurate. Speravo proprio che saremmo diventati amici la prima volta che vi ho visto, per il vostro rapporto di parentela con Mr. Kesabo. Nei suoi occhi vi era una certa luminosità liquida e anche Will si rese conto che i propri stavano ubbidendo a una legge di natura e si stavano colmando di lacrime. L'allusione a Mr. Kesabo avrebbe rovinato tutto se in quel momento qualcosa avesse potuto sciupare la forza soggiogante, la dolce dignità della sua nobile inesperienza fiduciosa. E c'è una cosa che anche ora potete fare, disse Dorothea, levandosi in piedi e camminando per un po' sotto la spinta di un impulso ricorrente. Promettetemi che non riparlerete con nessuno di quell'argomento. Voglio dire degli scritti di Mr. Kesabo. Intendo dire in quel modo. Sono stata io a portarvi a quel punto. È stata colpa mia, ma promettetemelo. Era tornata indietro, dopo quei pochi passi, e stava di fronte a Will, osservandolo con sguardo grave. Certo, ve lo prometto, disse Will arrossendo. Se non avesse mai più detto una parola sferzante su Mr. Kesabo e avesse smesso di ricevere favori da lui, gli sarebbe stato chiaramente lecito odiarlo ancora di più. Il poeta deve saper odiare, dice Goethe, e Will aveva perlomeno a portata di mano quella dote. Disse che ora doveva andare senza aspettare Mr. Kesabo, dal quale sarebbe venuta a congedarsi all'ultimo momento. Dorothea gli porse la mano e si scambiarono un semplice arrivederci. Ma nell'uscire dalla porte cochère incontrò Mister Kesabo, e questo signore, esprimendo i migliori auguri al cugino, lo esonerò educatamente dal piacere di qualsiasi ulteriore congedo l'indomani, che sarebbe stato sufficientemente movimentato per i preparativi della partenza. Ho qualcosa da dirvi su vostro cugino, Mister Ladislav, che penso migliorerà l'opinione che avete di lui, disse Dorothea al marito nel corso della serata. Appena era rientrato, essa gli aveva detto che Will se n'era andato in quel momento e che sarebbe ritornato, ma Mr. Kesab aveva replicato. L'ho incontrato fuori e ci siamo salutati definitivamente, credo, pronunciando queste parole con l'aria e il tono con cui facciamo capire che un qualsiasi argomento, sia privato che pubblico, non ci interessa abbastanza da desiderare che se ne tratti ulteriormente. Perciò Dorothea aveva aspettato. Che cos'è, mia cara? Disse Mr. Kesabo, diceva sempre mia cara quando i suoi modi erano più freddi. Ha deciso di smettere immediatamente di vagabondare e di rinunciare a contare sulla vostra generosità. Ha intenzione di tornare presto in Inghilterra e farsi strada da solo. Pensavo che questo lo avreste considerato un buon segno, disse Dorothea, rivolgendo uno sguardo supplichevole al volto indifferente del marito. Ha accennato a che tipo esatto di occupazione si sarebbe dedicato? No, ma ha detto che avvertiva il pericolo che rappresentava per lui la vostra generosità. Naturalmente vi scriverà in merito. Non lo giudicate meglio per questa decisione? Attenderò la sua comunicazione in proposito, disse Mr. Kesabo. Gli ho detto che quello che vi premeva in tutto ciò che facevate per lui era il suo bene. Mi sono ricordata delle vostre buone parole su di lui quando l'ho visto per la prima volta a Lowick, disse Dorothea posando la mano su quella del marito. Avete un dovere verso di lui, disse Mr. Kesabo posando l'altra mano su quella di Dorothea, consapevole di accettare la sua carezza, ma con uno sguardo di cui non poté nascondere l'imbarazzo. Il giovanotto, lo confesso, sotto altri aspetti non mi interessa, né è necessario, credo, che discutiamo della sua carriera futura, che non sta a noi decidere, oltre i limiti che ho sufficientemente indicati. Dorothea non fece più il nome di Willa.